ogni tu forse c'è. A quell'isola in mezzo al mare, in barchetta dobbiamo andare, sai perché? Notte di soli soli, con le mani nelle tue mani, fino all'alba dell'indomani, notte di, mentre a te si usignoli, un motivo ti canteranno, le tue labbra sorrideranno, solo a me, per passare le giornate, sfoglieremo margherite, per sapere dalle fate cos'è l'amore, fino a che le tue pupille, verso l'alba con le stelle, s'addormentano tranquille su questo cuor. Notte di soli soli, con le mani nelle tue mani, fino all'alba dell'indomani, notte di